Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Un'osservazione sulle dichiarazioni di Papa Benedetto XVI circa l'uso del preservativo. Ok, abbiamo tutti capito con chiarezza qual è la dottrina della Chiesa, ma quali saranno gli effetti, direi politici, di queste dichiarazioni? Probabilmente in Africa qualche centinaio di migliaia di persone, molte delle quali magari infettate dal virus senza neppure saperlo, persone che magari usavano il preservativo con molte esitazioni, ora non lo useranno più. Non stiamo parlando della Svezia o della Finlandia, dove magari possiamo fare delle dotte discussioni sul profilo morale della sessualità. In Africa è diffusa la convinzione che si guarisca dall'AIDS avendo rapporti con una donna vergine, ricordiamolo. La nozione che il preservativo possa offrire una barriera di emergenza alla diffusione del virus dell'HIV è debolissima, e da oggi ancora più debole. Mi pare che ancora una volta Papa Benedetto XVI sia estremamente rigoroso e severo per quello che riguarda la dottrina della Chiesa, non curandosi minimamente degli effetti sociali e politici delle sue parole. In altre parole, assume una posizione spirituale e morale netta, ma come tale non è una posizione politica in senso vero e proprio, che dovrebbe essere fatta di cuore, ma anche di ragione. Davide. Sono stato in Tanzania per un'esperienza missionaria e posso confermare che alcuni religiosi distribuiscono profilattici e comunque i risultati sono stati piuttosto deludenti. Da quanto ne so, presso molte organizzazioni umanitarie ci sono tonnellate di preservativi a stagionare. Non è un problema religioso, ma un problema culturale. In molti paesi la fedeltà coniugale è un concetto astratto. Addirittura è accettata e praticata la poligamia anche fra cristiani, anche se si tratta di un'usanza in forte ridimensionamento. Insomma, il preservativo può servire, ma comunque non risolve il problema, se prima non cambiano la mentalità e i costumi. E ci vogliono decine di anni per fare questo. Luigi. Gentile direttore, sono un ricercatore della Facoltà di Medicina dell'Università di Padova e in quanto tale sono abituato a considerare tutti i problemi sotto la luce dello spesso bistrattato metodo scientifico. Per questo motivo sono rimasto perplesso sentendo affermare che la prevalenza dei portatori di HIV in Uganda sia pari al 3%, uguale a quella riscontrata nella capitale americana, Washington DC, e dato che negli Stati Uniti i preservativi sono di libera vendita, ne conseguirebbe che il Papa avesse ragione ad affermare che questi non sono utili nella lotta alla pandemia. Ora, per prima cosa, i dati ufficiali delle Nazioni Unite danno la prevalenza media in Uganda al 5,4% e non al 3%, valore che si alza di più di 5 volte se si considera più correttamente non il dato medio, ma il dato della capitale dell'Uganda. Ad ogni modo, anche ipotizzando che davvero l'epidemia nella capitale statunitense sia agli stessi livelli dell'Uganda, il fatto che il preservativo sia un efficace strumento per prevenire la trasmissione del virus HIV durante i rapporti sessuali tra un individuo portatore e uno ancora sano è da lungo assodato, per quanto la sua efficacia non raggiunga il 100%. Il problema vero è l'educazione della popolazione, non la disponibilità alla vendita dei preservativi. Evidentemente le persone a Washington non usano il preservativo quando hanno rapporti occasionali, come avviene anche nella gran parte del continente africano. Ultimo, ma non meno importante, bisognerebbe spiegare che l'Uganda è il fiore all'occhiello dei programmi di prevenzione HIV in Africa. Infatti, grazie ai programmi di prevenzione, l'incidenza di nuove infezioni è calata drasticamente dagli anni 90. Programmi di prevenzione basati, guarda caso, su un approccio chiamato ABC, da Abstain, Be Faithful, Use Condom. Libero. Il preservativo è uno strumento che non blocca affatto il virus HIV. Infatti, a seconda dei diversi studi di laboratorio o statistici, è sicuro solo al 70-85%. Basta solo osservare, ad esempio, la situazione africana da una parte e quella ugandese dall'altra, per capire come tale strumento possa molto, molto frequentemente diventare un alleato del virus. Addirittura? Ebbene sì, Infatti esso è da molti inteso come l'arma che permette di poter fare un sesso sicuro, per cui spinge, invita e giustifica molte persone a praticare un sesso libertino, per poi, in molti casi, ritrovarsi infettati. Chi di noi metterebbe da bendato la mano in un sacchetto che contiene 10 palline, delle quali una o due sono nere, sapendo che se pesca proprio quelle nere si infetta? Nessuno, a meno che non gli si dica, mentendo o per ignoranza, che tutte le palline sono bianche. L'intervento del Papa è stato più che logico e i fatti gli danno ragione. Christian. Tutta questa disoccupazione che aumenta mi fa pensare che la nostra società sia basata su un sistema precario. Basta che si verifichi una crisi come quella in atto oggi e tutto va in tilt. Ci fanno crescere da decenni col mito del consumismo, del valore del comprare, anche dello sprecare, del cambiare, del non conservare. Per forza, se tutti dobbiamo lavorare e guadagnare, tutti dobbiamo macinare e triturare denaro, dobbiamo spendere, spendere e spendere per dare lavoro alle aziende e ai loro dipendenti. Ma questo ora ci dà un po' alla nausea. E allora sa cosa penso a volte, gentile dottor Fabi? Spero di non tirarmi addosso l'ira delle donne, ma credo che la nostra emancipazione abbia contribuito a questo modello di società. Se non ci sono posti di lavoro per tutti, è perché, a differenza di 40 anni fa, si è messa sul mercato una forza lavoro che prima era quasi sconosciuta, quella femminile. Se gli uomini guadagnassero stipendi più robusti, chissà quante donne rinuncerebbero al proprio lavoro, che non sempre rappresenta una gratificazione, ma solo qualche centinaia di euro in più nel bilancio familiare. Se molte donne ne avessero la possibilità economica, rinuncerebbero senza troppi dispiaceri al loro lavoro, che spesso vivono solo come una necessità e anche come un problema per la gestione dei bambini e della loro vita stessa, che rimane aggravata poi anche dal lavoro domestico. Non sono tutte manager, non sono tutte giornaliste o medici. Tante donne, potendolo fare, abbandonerebbero il lavoro fuori casa e molto volentieri. Forse è la parola casalinga, che non è mai cambiata a differenza di tante altre attività, a far quasi apparire vecchio e superato questo lavoro non retribuito. Si è mai pensato di chiamare, che ne so, dirigente familiare, la donna che lavora per i suoi cari? Forse vorrebbe dire ridare valore al contributo sociale di queste donne. Certo che alle condizioni degli stipendi di oggi è matematico che anche le mamme cerchino di guadagnare denaro, dovendone però in parte poi spendere per i nidi, in trasporti, in seconde auto, in tutta una serie di spese che altrimenti sarebbero risparmiate. È un circolo vizioso senza fine. Ma anche volendo ritornare indietro, come potrebbero oggi le donne non essere indipendenti economicamente? E se divorzi e se rimani sola, come puoi sentirti parte della società che produce, in un mondo che valorizza solo chi lo fa? E allora tutti a lavorare, anche se i posti richiesti sono meno di quelli offerti. Forse oggi sono molti gli uomini che lascerebbero volentieri lavorare le mogli e se ne starebbero a casa a fare i casalinghi. Forse ci vedono lungo. Lettera firmata. Cara Radio 24, mi permetto di sottoporti un'idea che da solo non avrei la forza di divulgare. Dopo tanto aver sentito parlare dell'opportunità di abolire le province, proposta che di tanto in tanto si riaffaccia anche sugli organi di informazione, senza mai riuscire a concretizzarsi, nonostante dei vaghi «siamo d'accordo» di molti politici, abbiamo con le prossime elezioni provinciali una bella opportunità. Annulliamo la scheda scrivendoci sopra «abolire le province». La consultazione elettorale si trasformerà così in un, sia pure non ufficiale, referendum. L'essenziale è che le schede nulle siano ben contate e che gli organi di informazione diano resoconto di quanti voti tale referendum avrà preso. Che ne pensate, Ivo? Caro Ivo, sono perfettamente d'accordo e ho avuto più volte modo di dirlo e di scriverlo, che l'abolizione delle province costituirebbe un passo importante sulla strada della riduzione dei costi della politica e dell'efficienza amministrativa. Ma, come lei sottolinea, i politici non sono mai andati al di là delle vaghe promesse seguite da puntuali silenzi. Che fare, allora? Lei suggerisce di annullare le schede, altri hanno proposto di rifiutare la scheda per le elezioni provinciali. Sono d'accordo sullo spirito di queste proposte, ma realisticamente non mi sembra siano in grado di raggiungere l'obiettivo. I voti annullati o gli astenuti si mischierebbero inevitabilmente con gli annullamenti o le estensioni per tante altre ragioni. Meglio allora continuare la battaglia culturale prima che politica, in attesa che la politica faccia il suo dovere e si renda conto che in periodi di emergenza come l'attuale non sarebbe solo più facile, ma doveroso attuare provvedimenti anche strutturali capaci di ridare fiducia nello Stato, abolendo vecchie sovrastrutture e costosi privilegi. Ho sentito i commenti dei familiari di Gabriele Sandri. Capisco il loro dolore, ma non condivido l'accanimento nei confronti della gente che ha sparato. Certo, ha fatto un errore enorme e giustamente sarà processato. Quello che mi dà un certo fastidio è la santificazione di Gabriele Sandri, che in quell'area di sosta non si era fermato per caso. Era lì per tendere un agguato ai tifosi di non so quale squadra e, se non ricordo male, ci sono anche dei filmati che lo riprendono nel corso delle sue eroiche azioni. Gabriele Sandri non era né un santo né un eroe. Era un teppistello in cerca di emozioni forti e purtroppo le ha avute. Alessandro. Trovo giusto tutto quanto è stato detto a proposito dei due cittadini rumeni trattenuti in carcere nonostante fossero innocenti per quel delitto. Detto questo, non mi sembra di aver sentito molte scuse da parte di magistrati, politici e giornalisti per il comportamento delle istituzioni nei confronti dell'ingegner Cagliari, morto suicida dopo oltre 3 mesi di carcere preventivo, e di tanti altri colletti bianchi ai tempi della gloriosa stagione di Mani Pulite. Paolo, Roma. Erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.